Sui nostri schermi c'è Matteo Failla. Ciao buonasera. Ciao, come avete mantenuto la promessa? Bene. Sì. Sui nostri la schermi soli. Soprattutto abbiamo mantenuto la promessa. Esatto, soprattutto lì, sì, bene, tutto bene, voi tutto bene. Senti bene? Sì, ti sento bene. Benissimo. Dici tutto. Ma allora, oggi parliamo un attimino di quello che è successo lunedì scorso alle Iene. Ah sì, non abbiamo visto. Ecco, sì. Premettendo che non ho assolutamente nulla contro le Iene, anzi ho ospitato anche sul blog una neo Iena che ci ha raccontato un attimino come è andata la sua prima avventura. Diciamo che quando si arriva intorno alle 11 nel programma delle Iene, come dicono Paolo, diventa un po' piccante. Diciamo che inizia, come dicono loro, l'ora delle bagasce. Scusate, questo è quello Matteo, che dico. Non si dice. E cosa succede? Succede che lunedì scorso è andato in onda il servizio di Luigi Pelato. Delle bagasce sono andate in onda. Una delle Iene che ha presentato un locale un po' particolare di Praga, nel quale si può andare gratuitamente a prostitute, in quanto all'interno di questo grosso palazzo, grosso locale, c'è la possibilità, cioè si viene ripresi 24 ore su 24, quindi si va poi in diretta. Sembra una battuta il fatto che si possa andare lì gratuitamente a, diciamo, a fare quelle cose, però è la verità. Invece è vero. Loro hanno mostrato questo posto, e il problema è che non hanno solo mostrato il posto e coperto il nome o i volti come fanno di solito, ma hanno detto il nome del sito, il nome del locale, dove si trova il locale, hanno detto anche addirittura le tariffe mensili per abbonarsi al sito, per vedere in diretta le evoluzioni dei giovani all'interno del locale. Insomma, hanno fatto una cosa che oggettivamente è risultato un po' di... E infatti mi ricordo che erano molto alte le tariffe, perché anch'io l'ho visto questo servizio. Sì, no, diciamo, sì, più che altro i guadagni erano alti, del sì, tipo? Sì. Si parlava di 1.800.000 euro mensili, perché con una piccola spesa ogni persona si poteva abbonare, facciamo intorno ai 30 euro, si abbona al servizio, però calcolando, hanno fatto il calcolo, 50.000 persone sparse per il mondo, ne è risultato poi un guadagno di ci questione. Credo. Ti sei abbonato subito appena visto. No, oltretutto scrivendo il pezzo io ho messo alla fine una battuta finale che non tutti hanno colto, e quindi mi hanno mandato messaggi chiedendomi informazioni, e ho scritto: beh, a questo punto, visto che ho organizzato il pullman giusto stamattina, intanto attendo adesioni. Il problema è che hanno aderito. Assolutamente, sono arrivate tantissime adesioni nel tentativo. Non hanno capito la battuta di questi. Vabbè, capita, comunque. Il fatto è comunque è stato quindi un vero e proprio messaggio promozionale. Ma diciamo di una marchetta hanno fatto forse. Si è parlato di marchette. In realtà poi è intervenuto, le Iene non mi hanno risposto direttamente, ma è intervenuto il regista che si occupa di girare filmini porno all'interno di questo locale. Ecco. E niente, ha detto che comunque, insomma, non era stato pagato nulla alle Iene, che è una cosa normale, che ci sono tante televisioni che si interessano a questo locale. Io non lo metto in dubbio, credo che sia successo così. Beh, però così normale non credo sia. Beh, sai, loro possono fare perché hanno un contratto con queste prostitute, da un contatto di lavoro da artiste e attrici, perché in realtà loro recitano, quindi è questo quello che anche hanno detto. No, è bello chiamarle artiste. Sì, questo è quello che mi ha detto il regista, scrivendomi in risposta al mio... Se l'ha detto il regista, e quindi noi ci crediamo. Certo, sì, però se non sbaglio, proprio nel servizio loro stesso, le famose attrici, hanno parlato della loro convenienza a stare in quel posto. Certo. Sia a livello sanitario, perché se non sbaglio comunque le persone dovevano sottoporsi ad un test per la loro sicurezza, sia perché loro comunque volevano fare questo lavoro, e alla fine, stando lì dentro, lo fanno in maniera molto più sicura e più tranquilla. Assolutamente vero, ma infatti io non avevo nulla contro questo locale, non mi interessa, vuole dire, una persona può andare lì e non c'è nessun problema. La cosa era più che altro il fatto pubblicitario, ecco, di dire ho capito. Tutto, ecco, il problema era quello, ecco, nient'altro. E credo che in ogni caso le cose siano andate così, probabilmente le Iene si sono informate, volevano questo scoop che avrebbe portato ovviamente share alla trasmissione, però è stato fatto in buona fede, quindi in cambio loro gli hanno detto: vabbè, però tu ci dici il nome. Ah, certo. Ci dici il sito, così, ci, ecco, dici è una marchetta, quindi in piena regola, senza pagare, però insomma, poi questa è una mia supposizione, però mi sembra abbastanza reale, insomma. Matteo, noi ti ringraziamo. Noi ci vediamo lunedì per andare lì a Praga? Cioè, esattamente, il pullman parte alle 6. Alle 6 di mattina. Ma scusate, ma per donne non c'è niente? Credo di no. Ah, vabbè, allora non vengo. Meglio mi così. Dispiace. Ti piace Bon Jovi? Come? Ti piacciono i Bon Jovi? Sì. Allora te li dedichiamo. Volevi dire? No. Che cos'è? È stato il plurale per un cantante al singolo. No, è un gruppo. Ah, sì, perché il cantante solista si chiama John Bon Jovi, il gruppo sono i Bon Jovi. È vero Matteo? È verissimo. Ecco. Grazie Matteo. Ciao, allora, ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Settimana prossima, ciao. Ciao.